11.03 sui 105.250. Ciao a tutti e tutte da Parole Ribelli e da Eddie e da Silvestro. Bene, andiamo a cominciare una nuova puntata di Parole Ribelli. Partiamo con la sigla e ci sentiamo fra un po'. Adesso vi mandiamo un altro pezzo e poi andiamo a presentare la puntata. Ma intanto salutiamo Francesca all'ascolto sul treno del disagio. Sai. Ma non vuoi prendermi adesso, che farai? Prendimi. Già sai. Credi di conoscermi adesso, che farai? Un cibo con tutti a posto, mo. Hello, sto bello, io gastro. Cucci fixi, snaps, vieni via col fisti. Scassami, sto di pressami. Spingimi in play, nuove techniques. Per i mega memes con i chicks beat. Per la MPG, metti ma giro tipo frisbee. Meglio scan split. Sai che tempi delivano. Pierce pop, David Ball pushing. Gusci di cremeria. 7G, paradia, sangue mix e via. Triple strip, strip po' po' strippo giù, splimpo splin, splatterin, flippo mosso, flippo mosso, su ardisco, su nastro, impasto ciò, chiacchesco, estro, aspro, minimo, fino alla fine di fino, dentro casino, fuori pellino, enuncia, pronuncia, pronuncia, faccio blues, papa buncia, cinque cuccia, me muovo, capì, denuncia, sentimi, puoi prendermi. Così, io sono l'incognita, avendo l'anima, e non si può uccidere, sono già potuto in pieno, è solo come Nemo e Bibito, tu mi vedrai in sta landa, quando la bamba blanda, flamba sta branda, la musica calma, calma, salva, plasma, amba, salva, se la realtà si rifrange, un prisma e scisma, congiura in postura, stare qua laggiù da, che odi nella carne cruda, sale sulla piaga nuda, evidentemente l'ingiuria mo trasuda, ma snada, vada come vada, mastinada, uno continua la sfida, messo si divida, 11.000 per 365 svida, sfida più sfida più spinto, cita e cita la ciria, ma incilla, è un'isima, debu debu, lacero il placet, placebo, spasmi di plastica, in capsula, cerebro a cerbero, baci a bracci, non si piange, un cico non si tange, senti qui. Credi di conoscermi, e forse finirà così, io sono l'incognita, chiusa dentro l'anima, e non si può uccidere, non ho già potuto in pieno, è solo come Nemo, sai, non solo mi senti, sono mo, sono mo, sono mo, vedi di vedere mio amico ciclo, tiro, tipo, vado a segino, senno, dribblo, sfilo, sguillo, tiflo, streppo, giappo, giappo, sangue mo, demo, demo, beccami sto promo, psicocromo, poco loco, lobo, strobo, ciclo, percepisco, po, tienimi sopra, l'onda, sfonda, sonda, sentimi, non puoi prendermi, credi di conoscermi, e forse finirà così. C'è 11 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Prima di tutto ricordiamo i contatti 011 2495 669 346 6673 263. Mi raccomando, scriveteci, altrimenti ci fate sentire soli qui a me, Silvestro. Andiamo a presentare la puntata, allora. Prima di tutto parleremo dei fatti avvenuti ieri a Roma sull'onda, diciamo, della nuova fase che la controparte ha inquadrato con i fatti di ieri. Coglieremo l'occasione per lanciare anche l'appuntamento del 12 aprile. Poi ci sentiremo un audio da Palermo, dove ieri in una scuola la Digos si è permessa di fare interrogatori, mandare denunce, insomma abusare del proprio potere con degli studenti di liceo. Andremo poi a presentare un appuntamento oggi al terzo piano biblioteca autogestita a Palazzo Nuovo, un appuntamento col collettivo Amici e Amiche di Oscaleria. E andremo infine a presentare l'appuntamento di domani in collegamento con uno dei ricercatori che interverranno, il secondo appuntamento di Campus Invaders, un picnic, come abbiamo già visto, una riconquista dei prati, e andremo appunto a collegarci con Alberto Vanero per farci illustrare un po' su cosa verte il dibattito di domani, che sarà a seguito del picnic. Adesso ancora un po' di musica e poi cominciamo. Un'altra la posta, un'altra la porta, scaltra la mossa, apro la botta. Ehi, tu lascia che si apra la lotta. Se non so di due sbarchi, non è un gioco, taglio d'oro. Aspetta in silenzio l'assenso dell'astro più alto, un colpo di vento lancio in alto il mio pimone di Damasco, il vero mas maschio tende i muscoli a tempo, mi ergo pugno chiuso, dorso nudo coperto da un solo cesso, cento di cento ne rimarrà uno solo da esempio nel centro, all'impatto violento qua, il tuo pianto nel tempio lascia il tempo che trova, io combino colpi su colpi, poi torno in posizione in yoga, è un continuum di corpi contorti mentre il cielo tuona, chiudo il nemico sei in zona, tu spera che piova, poi c'è l'high-tech rap della celebre scuola, tablo jack, jack tra micro, dove due vola, un altro bivoria vola, un'altra volta la carica, un altro ematoma viola, su un'altra volta cranico, un'altra faccia che falcia, il mio rap uppercut, il mio rap apre crani e schiaccia la gabbia torace. L'incrocio di due sguardi non è un gioco, taglio d'oro. Quattro anni, per massacrarti. L'incrocio di due sguardi non è un gioco, taglio d'oro. Quattro anni, grazie a satanata, dato che qua ci si ammazza, schiamazza e citata, una stanza sodata, stringo la mazza ferrata, la mia corazza blindata è una danza, è l'arte della spada, cuore più mente, tecnicamente applicata la sonata. Non ci si disputa uno scettro, ma un giro all'inferno, metto la mia faccia ma lo scelto, scendo in guerra sempre senza remo, fermo mentre osservo, trattenendo il nervo, sferro quando sono certo di far centro come fosse certo, trucchi non ne servono, meglio è da sciocchi perdono, il nome i nemici perdono, luce dagli occhi cercano, facili sbocchi a terra, i fragili colpi trovano, facili morti sotto i miei abili tocchi, meglio fare sul serio, stile che spazza e sfascia, chi sia schiavo d'esperto mi lascia, solo una taccia, tu lascia, solo una faccia, questa è la traccia di Parma che passa, affido il tuo corpo agli dei, è calma piazza. L'incrocio di due sguardi non è un gioco, taglio d'oro. Quattro anni, di due sguardi non è un gioco, taglio d'oro. Quattro anni, mi ritrovo per le strade del mio vecchio quartiere, proprio qui, dove sono cresciuto. Il campetto su cui giocavo a pallone, con i miei vecchi ragazzi, e sempre in mezzo a mille scazzi, nella riviera, terra di frontiera, il mio vecchio mare. Ma non posso fermare il flusso della vita. Vecchio quartiere. Cammino lentamente, ma chi mi fa il mio vecchio quartiere? Cammino lentamente per il mio vecchio quartiere, incontro gente che giuro non vorrei vedere, un barista che mi fissa dritto in faccia e che mi xa, sono sempre io, quello che un tempo credeva in Dio, quello che credeva al mondo fosse il miglior posto dove stare, passando in questi posti sento il mare penetrare i miei polmoni, dilatare i pori, torno a stare fuori, a buttarmi in situazioni, a rischiare per il gusto ormai non più per convinzione, ma istinto, reazione, public relazione, coi ragazzi ai Carucci, polizia, polizia, un generale, fuggi, fuggi, nel mio Walkman passa un pezzo di luce e poi dei fugi, ma più stai qua e meno tempo ti distruggi, le 10 suonano le campane, dai buchi delle case escono le pantegane, oggi ho zero voglia di star chiusi nelle tane, anche i gatti hanno paura di sbranargli le membrane, gente del palazzo insieme a me nella casa, col Jimu, Dennis, Doris, la testa brasa, saluto piani, fondura, collette, ferriere, BDM, Fabri Vero e tutte le persone vere, non smettete mai di essere così sincere, e chi vuol fare il duro, il gangsta, fa il piacere. Cammino per il mio vecchio quartiere, per i piccoli cuniculi del mio vecchio quartiere, tipo pantera, che pantera. Cammino per il mio vecchio quartiere, per i piccoli cuniculi del mio vecchio quartiere. Cammino lentamente, non c'ho voglia di fermarmi. Di notte la città sembra sepolta, ci sono tre gendarmi a guardarmi. Gli altri tutti andano a imboscarsi. Diamo un aggiornamento dell'ultima ora sul territorio cittadino. C'è una retata della Celere in corso nei palazzi di Corso Emilia, angolo Corso Giulio. Come sappiamo sono palazzi pieni di migranti, quindi è in corso una vera e propria retata per prendere, per acchiappare chi è senza documenti. Niente da fare, se non cazzeggiare all'infinito, ma adesso sciacollito sul pomello, schiaccio il bottone, sto dal muro in propulsione, accedo al ritornello, ai miei compa d'infanzia, fratello, cammino per il mio vecchio quartiere, per i piccoli e cunicoli del mio vecchio quartiere, cammino per il mio vecchio quartiere, per i piccoli e cunicoli del mio vecchio quartiere. A volte la città mi butta giù, sai, non riesco più a vedere il cielo tra le fabbriche, le case, ai guai. A volte la città mi spacca in due, man, mi deprime, ma delle due la spacco io, man. Biochimicamente sento il richiamo del mio mare, devo andare, sento gente che dice lì che cazzo sei andato a fare. Altri mi dicono hai fatto troppo bene, i fratelli sulla costa godono il sole, ma soffrono le catene dell'inverno quando cala sulla strada. Alle 10 copri fuoco solo sbirri, notte a mare lungo l'Aurelia con la para. Posto di blocco, tranquillo che il poliziotto non spara. Poco, poco, i primi in aria, secondo per cambiare aria, che sembra sana ma in realtà ha la malaria. Ma la marea si porta via il dolore, quando arriva primavera torna il suo calore, senti il suo sapore. A me chi nasce, a chi non la fa giù, a voi io tu no. Fammi chi nasce, a chi non la fa giù, a voi io tu no. Cammino per il mio vecchio quartiere, per i piccoli e cuniculi del mio vecchio quartiere. Cammino per il mio vecchio quartiere, per i piccoli e cuniculi del mio vecchio quartiere. Per il mio vecchio quartiere, PM Porto Maurizio, ok. 11:20 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo, allora, come detto in presentazione di puntata, andiamo a collegarci con Roma alla luce di quello che è successo ieri. Ieri c'è stato il terzo tsunami tour nella città. Diciamo che questo qui in particolare si confrontava con il nuovo governo in carica. Bene, siamo in collegamento con Arianna. Arianna, ci senti? Arianna, ci senti? Sì, io vi sento. Perfetto, anche noi sentiamo a te ora. Ciao. Vabbè, intanto un saluto a tutti. Io vi parlo dei fatti di quello che è successo ieri con il terzo tsunami tour, che abbiamo occupato 5 stabili in 5 zone diverse di Roma, 2 studiati e le altre 3 dei movimenti di lotta per la casa. E io parlo personalmente dell'esperienza di Ratta Caputo a via Cesalpino 12, in zona universitaria, quartiere policlinico, e che abbiamo subito dei forti sgomberi. Diciamo che è stata delle 5, quella diciamo con una dinamica più rapida, più violenta e con una repressione più repentina e più forte. Diciamo il bilancio della giornata mi porta ad avere varie conclusioni. Cioè, la prima è che il livello di repressione da parte delle forze dell'ordine è stato decisamente alzato rispetto ad esempio ad un anno fa all'occupazione dello studentato di De Gauss, sempre nella stessa zona, che il clima politico e il contesto che fa da contorno agli sgomberi di ieri, ricordo che è stato sgomberato oltre al nostro anche altre 2 occupazioni, fra cui un altro studentato in zona Ostiense, che diciamo ha cambiato volto, e questo è quindi stato un terreno per noi di prova, perché sgomberi di queste dinamiche prima non erano stati fatti. Ricordo che hanno arrestato 2 di noi che hanno usato di maniere forti e anche pesantemente, ci hanno preso a palate per la precisione, svitando le barricate che avevamo fatto per proteggerci dall'interno e dandocele in testa. Abbiamo avuto un ragazzo svenuto, un altro si è rotto il setto nasale, li hanno dovuti portare anche via all'ospedale. Ma comunque sembrerebbe... ci hanno identificato uno per uno, documento alla mano, foto e video per ognuno di noi. La cosa che ricordo è che comunque questa sgombero a via Cesalpino di ieri, che per le forze dell'ordine è stato giocato come una roba di ordine pubblico è stato un forte sgombero dalle tinte politiche, nel senso che dietro si vede chiaramente un intento da parte del governo Renzi, da parte del partito che lo rappresenta, dunque il PD, del piano casa, del Jobs Act, di essere il più possibile contrari a questo tipo di pratiche di riappropriazione dal basso. Beh, abbiamo visto che le prime dichiarazioni del nuovo premier non si sono risparmiate di essere contro esperienze d'occupazione, quindi la musica, diciamo, si intuiva da subito, ma poi abbiamo visto che c'è stata anche sembrerebbe che Renzi come nella liberalizzazione, cioè nell'attacco ai lavoratori piuttosto che a occupanti, a movimenti, così nella repressione appunto sia colui che sancisce l'accelerazione di processi già in atto, perché poi ricordiamo gli arresti di qualche mese fa, un po' sì, i domiciliari, un po' all'acqua di rose, però un primo avvertimento, sgomberi, e oggi, quella stessa è la risposta. La città un po', la cittadinanza, chi era, insomma, i quartieri che sono stati teatro di questi atti, come hanno reagito? Allora, ieri, prima di tutto, subito dopo il nostro sgombero, ed è stato uguale per lo sgombero dello studentato Alexis in zona Ostiense, ce ne siamo andati via in corteo. A quel punto noi eravamo entrati in 100 dentro il locale, dentro l'abitazione. Quando siamo usciti erano già arrivati di compagni fuori e un sacco di giornalisti e di truppa, quindi a quel punto, quando ce ne siamo andati in corteo, eravamo più o meno il doppio di quanto eravamo entrati. Siamo andati in città universitaria, abbiamo fatto molto rumore, megafonate, e abbiamo sempre più assemblato cittadini e studenti dentro anche il quartiere universitario. Dopodiché tutto è confluito al commissariato in via Forlì, dove ci siamo fatti ridare, abbiamo riscattato i nostri compagni che sono stati rilasciati, e dopodiché abbiamo fatto una grande assemblea con tutte le altre realtà cittadine e le occupazioni che erano state fatte quel giorno per tirare un po' le somme e il bilancio della giornata. Comunque, allora, la comunicazione con Arianna si è evidentemente interrotta, un po' di musica mentre proviamo a ristabilirla. Phil, è una guerra tra poveri, giusto? Ma niente può fermarci. Demon Science, oh. Se io sapessi il modo di iniziare una canzone su di un loop, tanto soul, mi chiamereste Stevie Wonder, no question. Oggi che le etichette e le radio sono la mafia, io rivoluzionario e la mia musica porta la kefia. Demon Science, se questo è un pezzo rap, come sostiene qualcuno, devo ripetere il mio nome in continuazione. Demon Science, perché si fissi nei ricordi dell'ascoltatore che non ha colpa, e se la massa non ragiona, poco importa. Non è una questione di forma, ma è dimostrare che l'hip hop non è una formula dove uno dice io e l'altro fa il gesto delle corna. Al rap della fretta e delle rime scrause, preferisco la chiarezza e le pause. Bene, abbiamo ristabilito il collegamento con Arianna. Arianna, ci senti? Sì, vi sento, mi sentite? Sì, ok, siamo di nuovo in diretta. Allora, concludo il discorso rilanciando alle date assolutamente del 12, a questo punto il corteo nazionale a Roma assume delle tinte molto più forti e molto più decise alla luce dei fatti di ieri, e assolutamente a domani, dove faremo un corteo interno all'università che confluirà molto probabilmente in una grande assemblea che si muoverà verso Porta Pia, che diciamo è diventato il luogo simbolico di queste lotte di riappropriazione e di occupazione, che comunque questo atteggiamento delle forze dell'ordine e del governo di ieri non ci spaventa, che ci stiamo già rimobilitando e che sarà, diciamo, una primavera molto calda qui a Roma. Si prospettano un sacco di azioni interessanti. Va bene, Arianna, allora grazie mille, sicuramente noi cogliamo il tuo invito e non possiamo far altro che rilanciarlo dalle libere frequenze di Radio Blackout. Buona giornata. Dai, grazie, e che sia un'altra giornata di lotta. Ciao, al 12. Al 12. Bene, abbastanza impressionante il racconto di Arianna, proprio alla luce anche di quello che lei stessa diceva, che comunque, essendo il terzo Tsukami Tour, abbiamo visto che una risposta di questo genere non c'è mai stata. L'occupazione di casa è una pratica abbastanza che è andata senza mai esaurirsi dagli anni 70 ad oggi a Roma. Certo è che diciamo la stagione conflittuale di questa pratica di lotta e di riappropriazione sta vedendo una nuova fase aprirsi. Bene, andiamo avanti con un po' di musica e poi rilanciamo quello che Arianna diceva parlando un po' di questa data di il 12 aprile. Pause. L'ampiezza di respiro nel trattare i concetti è la chiave di ricerca delle cause. Quando piuttosto che vivere noi esistiamo, e nel momento di attaccare ed esistiamo, in nome di una dignità che non abbiamo e di una cazzo di coerenza che al primo appuntamento depistiamo. Perché per quanto puoi ridurlo al minimo esigibile, per quanto puoi farlo difficile, il rap è uno strumento per comunicare a tempo e capiscimi, il senso non è un fatto prescindibile. Niente può fermarmi, niente può fermarmi, niente può fermarmi. Fino a chi ha la forza di pensare tu non puoi consolarmi. Se potessi vivere quello che scrivo per comprendermi, se potessi credere in quello che dico, niente può fermarmi. Se potessi darti quello che provo, anima, cuore, lividi. Se potessi credere resti in me, niente può fermarmi. Dopo due giorni riprendo tutti i motivi che avevo per scrivere. Da capo, dopo due giorni riprendo tutti i motivi che avevo per scrivere. Lo stress sulle parole condiziona il mio accento. Rifletto che parlare a chi con rap non c'entra un cazzo. Molti lo chiamano un compromesso, ma fare rap che parla di rap e parlare alla gente che ascolta rap è un controsenso. Come se i libri parlassero di libri ed ogni foto stampassimo i negativi. Rap è music of my mind come Stevie, e questo pezzo è per me l'ultimo del genere di accorci e respiri. Mi sto annoiando con discorsi ormai vecchi, tre sulle batterie sono parecchio esaustivi. Quando l'ispirazione è poca ne risenti, e di costrutti sono frutto di progetti poco costruttivi. È il momento del come, il momento del se è passato, e a raccontarlo con un tono così compassato. Siamo noi sopravvissuti e ognuno fornisce la sua versione. Perché per quanto in Italia fosse sparito, per quanto sembrasse finito, il rap è il mio strumento per comunicare a tempo, e il senso non lo dai con un titolo, altrimenti il progetto è fallito. Niente può fermarmi, niente può fermarmi, niente può fermarmi. Fino a chi ha la forza di pensare tu non puoi consolarmi. Se potessi vivere quello che scrivo per comprendermi, se potessi credere in quello che dico, niente può fermarmi. Se potessi darti quello che provo, anima, cuore, lividi. Se potessi credere resti in me, niente può fermarmi. Se potessi, niente può fermarmi. Se potessi, niente può fermarmi. Niente può fermarmi. Se potessi, se potessi, niente può fermarmi. Sì, sì, sì, facciamo la seconda glaciazione. Oh, se potessi, tu sei come me, Phil. L'hip hop ti ha cambiato la vita, è il destino. Se potessi, oh, lo sai com'è, lo sai com'è. City Sound, se potessi, sempre qui, da sempre. Niente può fermarmi. And we out. Segui la furia, cavallo dell'est, movimenti bruschi, atteggiamenti big. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer dans la mare, de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, si t'as compris Francis Fanon, appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages.

da lì in poi abbiamo visto appunto succedersi nei mesi, intensificarsi non solo le lotte sui territori con una stagione di occupazioni comunque senza precedenti, ma anche gli appuntamenti di costruzione di continuazione del percorso che il 19 ottobre ha fatto partire. Bene, da uno di questi appuntamenti è uscita questa data del 12 aprile, che doveva inizialmente essere un controvertice, perché era stato annunciato questo vertice, questo summit europeo sulla disoccupazione giovanile, che è stato poi spostato probabilmente a luglio a Torino, si vociferava, non ne siamo certi. Nel momento in cui questo vertice è stato revocato, i movimenti hanno deciso che la propria agenda comunque la si stabiliva senza bisogno di organizzare contro summit o dovendo stare all'inseguimento di discussioni che, come sappiamo, poi sono altro non sono che prendere proprio arbitrarie decisioni sulla nostra testa, infarcendole di fantastiche parole d'ordine, fantastiche formulette magiche internazionali, buone per tutte le stagioni. Vediamo che per esempio quella di questo periodo è, per quanto riguarda il mondo del lavoro, la flessibilità. Bene, sembrerebbe che il governo Renzi abbia deciso di attuare un po' questo cambio di retorica dalla pezza, dall'emergenzialità dell'austerity a una nuova prospettiva, ovvero siamo tutti sulla stessa barca, adesso si parte verso la via luminosa dello sviluppo. Sviluppo, flessibilità, altre parole vuote, altri concetti completamente aleatori che, pur universalizzandoli, non rimuovono minimamente tutte le specificità e le particolarità dei contesti a cui vengono applicate. Abbiamo sentito del resto nella scorsa puntata il collegamento con il compagno Basco, che ci parlava delle riforme che gli studenti stanno protestando in tutta la penisola iberica, e abbiamo commentato già allora, lo ripetiamo, quanto sia agghiacciante la somiglianza tra le modificazioni che il mondo del sapere il mondo della formazione sta subendo, perché appunto come vanno di pari passo le modificazioni dei luoghi, delle strutture, dei luoghi del sapere, così si evolvono ambiti come quello del mercato del lavoro, dell'accessibilità dei servizi, delle politiche sui territori. Bene, il 12 aprile, di nuovo, una sola grande opera, Casa e Reddito per Tutti. Segui la furia, cavallo dell'est, movimenti bruschi, atteggiamenti pigri, ciò, molivete da est, preparati a tutto, come nella tana delle tigri, questa è la costa degli intrighi, dove si allenano i paladini dell'ingiustizia, pronti a combattere per ogni piccola cosa. Segnaliamo vigili e controllori insieme sul 4, cisti. Dentro il pacco, con fare sospetto, si aggirano quasi come degli umanoidi, tubi in goccia di pomutoidi, le caprette ti fanno ciao Heidi, la nonnetta con la carrozzetta, uno della borghese che si fuma una sigaretta, guarda per terra la siringa infetta, quelli del pacchetto stanno facendo un piano, un progetto, tremate, scappate, quando il popolo del pacco vi ritornerà all'attacco. Suoni del mio giro di sequenze metaboliche, amplificando sinfonie di arti diaboliche. Cavalcata onda, sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Rotonda, rotonda. Suoni del mio giro di sequenze metaboliche, amplificando sinfonie di arti diaboliche. Cavalcata onda, sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Rotonda, rotonda. quando il canto dei grilli farà scoppiare la città. Non ci sarà più via di scampo, non arderà lo spirito santo. Fuggire sarà impossibile, non funzionerà il mantra. Unica via di fuga saltando nuove cellule cosmiche. SOS per una guerra persa. Ero a bordo della quarta caravella quando ho scoperto il sesto continente in direzione di una stella. Guardali, stanno cadendo a pezzi, psicotecnologicamente, squamandosi come la pelle del serpente. Vogliono manie che si sviluppino naturalmente, vogliono manie che si sviluppino collettivamente. Suoni del mio giro di sequenze metaboliche, amplificando sinfonie di arti diaboliche. Cavalcata onda sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Rotonda, rotonda. Suoni del mio giro di sequenze metaboliche, amplificando sinfonie di arti diaboliche. Cavalcata onda sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Rotonda, rotonda. Gocce di soluzioni megametriche per situazioni ormai isteriche. Meravigliosa, eccezionale veramente. Questo è il traghetto sul tempo costante. Guida caronte, puttatimo di goccia nel giro. Da fronte, dosaggio logico per rendermi attivo. Antisettico come pensa il sogno, stregonesco come lo stramonio. Mi appare l'immagine di Sant'Antonio, legittimo come la matta, sto vitaminizzando il mondo. Scala reale, 7,5 legittimo. Il giudice del grande gioco fa partire la rivincita dei dannati della terra. Guardatemi, sto arrivando senza senso come l'uomo cannabinoico, come Cabal enolico. Guardali, aspettali, aspettate che arriverà il sogno nel bel mezzo della vostra estate. Suoni del mio giro di sequenze metaboliche, amplificando sinfonie di arti diaboliche. Cavalcata onda sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Rotonda, rotonda. Suoni del mio giro di sequenze metaboliche, amplificando sinfonie di arti diaboliche. Cavalcata onda sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Rotonda, rotonda. Bene, 11.44, continuiamo con quello che dicevamo, una sola grande opera, casa e reddito per tutti. Bene, abbiamo visto dal punto di vista della casa, col piano casa e quello che poi nei fatti si è concretizzato ieri, e dal punto di vista del reddito come si pone il nuovo governo, ma abbiamo visto anche come ci poniamo noi, perché come diceva Arianna, domani ci sarà giornata di lotta dentro la Sapienza, cioè convocato corteo dentro la Sapienza. Il 12 aprile saremo tutti a Roma e sabato c'è stata una giornata importante per i Notav del Terzo Valico. Si è ripreso il cantiere, si sono riprese le terre del cantiere ad Arcavata Scrivia, una giornata bellissima di lotta popolare in pieno stile del movimento Notav. Bene, come appunto dicevamo prima, il quadro generale, non c'è un solo ambito in cui bisogna lottare, ma siamo impegnati su tutti i fronti. Abbiamo nominato quello della formazione, del resto siamo un collettivo universitario e ricordiamo che questa è proprio la settimana di mobilitazione universitaria verso il 12 aprile. Perché da universitari non possiamo esimerci dal animare quella piazza e portare lì tutte le nostre esigenze? Perché del resto, diciamo, appunto, la pretesa di avere una casa ce l'abbiamo e abbiamo visto qual è la disposizione del piano casa di Renzi. E da un punto di vista della formazione stanno smantellando piano piano tutto quello che rimaneva dell'università, come magari molti di noi quando ci sono entrati se la ricordano. Adesso vediamo che l'università non è neanche tanto più una prospettiva di fatto, e allora c'è il Job Act che ti accoglie fra le sue calde braccia. Bene, di tutto questo da un po' si stanno interrogando studenti e studentesse del campus sotto il sotto il nome di Campus Invaders, perché queste ragazze hanno identificato nel campus un dispositivo che è proprio veicolo di questa nuova università inserita nel contesto che si vuole prefigurare per tutti quanti, a noi giovani in particolare preme, perché si tratta comunque del nostro futuro e della nostra vita. Bene, allora adesso andiamo avanti con la puntata, un po' di musica, e poi sentiremo Alberto Vanero che ci parlerà un po' di questo dispositivo. Dai. Dynamite, i giradischi sono caldi, dischi la metà delle truppe di Garibaldi, DJ giganti dalle mani grandi, cambiano le orelle per i piatti, schiacciano le teste ai santi, sopra gli altri per fotte d'energia, fanno più tagli di Edward, mani di furbi, zinco pisteria, loro gli angeli dei catti, appollaiati sulla nuvola data dall'esplosione di un milione di grossi petardi, se il cugino e si avvicina per ascoltarli, la vibrazione della puntina di sti due pazzi, DJ se lo defila ed esce fuori dal parco che sembra Pierluigi Collina, taglie volte Rix, pure adrenalina, miscela come Campari Mix, solo che esplosiva, il DJ arriva, ma lo ripeto lo stesso, se mixate con l'uccello qua non ci mettete il becco. Dynamite Soul 6 per tutti gli estimatori, ci siete stati ancora là fuori, un microfono, 500 dischi, e un milione di cose da dirti, One Mix o Rage, Dynamite Soul Records, tu vai, che noi ci saremo. Yaman, Centro Click Silo. Questa va ai DJ, agli MCs, a punto duro, fanno in culo al mainstream, nei magazine, notizie flash, il nerd muove cash, non su dove stesso, non suppone che, col sudore che, ho pensato in passato anch'io, ci avevo adegnato da Dio, avere mani per le mani, magari domani, oggi seguo vani ideali, ma i reali problemi sono pieni di debiti e crediti, per cui mettiti in gioco, con due lire o astreniti, se non sei pronto di investire in fuori il tuo stile, parti dalle tue parti dove scappi ad imbalzarti, parti dallo zero se vuoi arrivare a cento, l'obiettivo primo, dedicato a chi sfrutta il suo talento, dedicato a chi non butta via il suo tempo, dedicato a chi sa e lo dimostra, la città è nostra, dedicato a chi vive ogni secondo, dedicato a chi sa conquistare il mondo, dedicato a chi sa e lo dimostra, la città è nostra, temerari, tra i binari, negli scali, devastano più treni dei disastri ferroviari, case, gli stili che si muovono, nomi sui balconi come niri che al microfono, non possono fermare tutti, quanti ti metti di impegno, non spegni l'incendio, con due sputi, lo sceriffo vuole il nome e l'indirizzo di ogni tizio che bombarda e da un palo chi parla, paura nessuna, questa cultura è radicata nella strada, peste che dilaga, teste testate, vesti basse, venti mente cazze per far cazzate, esistenze complesse, compromesse messe in gioco da scommesse feste, poco di cui essere servi, ma se cerchi si disservati, sai dove trovarci, un tiro di Treviso, sul palco e sul metallo, è attivo e massivo, e nessuno può fermarlo. Dedicato ai guerrieri della notte, dedicato a chi sfida la sorte, dedicato a chi sa e lo dimostra, la città è nostra, vuoi la risposta massiccia, comincia dalla tua provincia, Bad Rap, Bad Bro Clothing, la marca dai capelli e pantaloni, siamo i polizioni imprenditori con i piedi per terra e la mente aperta, TV, TV, oltre i giri, limiti, minimi, veniamo con le flecci, cervello, cuore, coglioni, siamo i più milioni eppure siamo i migliori, siamo fuori con la scimmia sulle spalle, caricatori pieni, vieni, non spariamo col piazzale. Dedicato a chi gioca le sue carte, dedicato a chi fa la sua parte, dedicato a chi sa e lo dimostra, la città è nostra, dedicato a chi è pronto contro il peggio, dedicato a quelli con il casseggio, dedicato a chi sa e lo dimostra, la città è nostra. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

11.56 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Bene, come dicevamo, andiamo a presentare un appuntamento, quello di domani, che parte dalla riflessione a cui accennavamo poco fa e sarà la seconda invasione dell'astronave Campus che è atterrata su Torino. Siamo in collegamento con Alberto Vanollo, ricercatore del Dipartimento di Culture, Politica e Società. Alberto, ci senti? Ciao, sì, ci sento. Bene, Alberto, tu parteciperai al dibattito di domani che seguirà al picnic sì. Diciamo, che invaderà per la seconda volta i prati del campus. Come abbiamo già detto, quest'atto non solo è un momento in cui conoscersi, attraversare quel posto e dividere un pasto che tra studenti, ma è un modo per ridefinire un po' l'attraversamento di quello spazio, ridefinire anche la funzionalità di quel luogo. Vediamo, appunto, abbiamo visto che c'è stata la rimozione dei cartelli vietato calpestare le aiuole lo scorso appuntamento, il primo appuntamento di Campus Invaders. Bene, Alberto, con te volevamo un po' appunto anticipare il tema del dibattito di domani, ovvero la funzionalità di questo dispositivo. Diciamo, al tuo occhio, un po' allenato a vedere queste cose, volevamo che condividessi con noi appunto il tuo sguardo su il tipo di vita che dentro al campus, il campus stesso nella sua struttura prefigura. Sì, è molto interessante. Io purtroppo non ho sentito il discorso che avete intrapreso prima, quindi non vorrei ripetere cose che avete già detto. È interessante, ed è l'ennesima prova, il campus, di come in realtà l'architetto progetti degli spazi, pensi degli spazi con certe funzioni, e poi in realtà è la vita delle persone, gli studenti che, anche senza un progetto esplicito, si riappropria degli spazi, li reinventa, li vive in modo differente. Quindi magari quelle opere d'arte installate, che non si sa bene cosa siano, acquisiscono dei nomi differenti rispetto a quelli che si immaginava, diventano dei punti di riferimento differenti, magari diventa un luogo dove appoggiarsi, trovarsi a fumare, qualsiasi cosa. Ed è interessante anche come le stesse regole si negozino con gli usi che le persone fanno di questo spazio. Il divieto di attraversare il prato per poterci semplicemente stare sopra a fare il picnic è interessantissimo, ma mi ricordo che anche all'inizio mi sembrava fosse vietato fumare anche all'aperto all'interno del campus. Poi assolutamente sì, ricordi bene. Senti, dato che noi ti interrompo un attimo, abbiamo la pretesa di essere ascoltati anche da persone che non l'hanno mai visto questo campus, hai voglia di descriverlo un po' e ovviamente sottolineando quelle parti che secondo te più rappresentano quello di cui dicevamo un po' poco fa? Lo spazio, e adesso io cito dei dati più o meno a memoria, potete benissimo cogliermi in castagna, io non studio questo in senso stretto. Credo che sia stato progettato intorno al 2000 ed è un progetto firmato dallo studio prestigiosissimo Foster, ma c'è tutto un dibattito perché in realtà pare che Foster stesso non sia mai venuto a Torino, in realtà debba ritirare la firma dal progetto, abbia chiesto di ritirare la firma dal progetto. È la classica struttura, quelle architetture molto ipermoderne, postmoderne, in acciaio, vetro, molto curvilinea. Dire bello e brutto non vuol dire niente, perché dipende. È stato considerato da molti un'opera prestigiosa, uno dei più bei campus in qualche misteriosa classifica, se ne fanno tantissime di queste classifiche. Molti altri lo vedono in modo più critico. Certamente, dal punto di vista del, secondo me, personalmente mio, dall'impatto visivo è piacevole, si situa bene rispetto allo spazio in cui è collocato, nel senso, percorrendo lungo la Dora si schiude pian piano lo sguardo, da questo lato è bello. Come modo in cui sono costruiti gli spazi è molto tradizionale, ad esempio ci sono le aule con il professore da una parte e dietro la cattedra i posti dall'altra parte. Tutto sommato, nel modo in cui si fa lezione adesso, si vorrebbe fare lezione, sarebbe meglio avere degli spazi un po' più flessibili, aperti, non so, non è proprio il massimo. Ecco, e anche, sì, Mi scusa? No, scusa tu, guarda. No, dicevo che quello che dicevi sul progetto è vero, il progetto risale al 98 e sì, anche a noi risulta ci sia questa controversia sulla firma, perché le archistar... Esattamente. No, la cosa assurda anche del fatto... sul voler mantenere 10 anni dopo un progetto invariato è anche la differenza di iscritti all'università, cioè sembrerebbe da tutto quanto suggerisce una vita che poi non è quella che il campus effettivamente ospita, perché non ci sono spazi per gli studenti, non, come dicevi tu, c'è una netta divisione tra i perimetri che si possono attraversare e quelli che invece sono preclusi a coloro che tutti i giorni abitano il campus. Sappiamo anche i lavoratori della biblioteca, per esempio, hanno per riunirsi, per poggiare le cose, una sorta di sgabuzzino, e sono persone che passano tre quarti della propria giornata, volenti o nolenti, perché di lavoro si tratta, dentro a quella biblioteca. Poi, come dicevi tu, appunto, questa struttura in vetro suggerisce anche quasi panottica, si può definire. No, beh, questo è assolutamente evidente. Dunque, sicuramente c'è un problema di sfasamento rispetto ai tempi. Un progetto, appunto, 98 addirittura, sono più di 15 anni fa, sono cambiate completamente le esigenze, il modo in cui è percepito anche il bello e il brutto. C'è tutto un dibattito sul fatto che, ad esempio, un progetto così vecchio non abbia dei requisiti di ecosostenibilità che tendenzialmente le opere nuove hanno. Pannelli solari mancano, per esempio. Assolutamente sì, c'è appeso, c'è quel triangolo gigante di cartone a Palazzo Nuovo da una decina d'anni che dice stiamo rendendo sostenibile Palazzo Nuovo, e pochi anni dopo vengono investiti fior fior di milioni di euro, perché quelli dichiarati sono solo 9, ma sappiamo che purtroppo non ci si può fidare, in una struttura che a livello di sostenibilità non ha veramente nulla in più rispetto a Palazzo Nuovo. Del resto è anche abbastanza comprensibile, il progetto è di più di 10 anni fa, quindi non... Ma il 98 era un clima poi completamente diverso, si stava facendo il primo piano strategico, la FIAT non era così in crisi, la percezione che, mentre oggi insomma appare più... Credo apparirebbe più o meno assurdo chiamare l'Archistar per fare una mega opera con la pretesa di diventare un campus di richiamo internazionale, insomma non è una strategia credibile oggi. Il 98 è l'anno del processo di Bologna, quindi in cui diciamo l'Europa decide di dare una svolta sostanziale al mondo della formazione a livello appunto transnazionale, quindi in realtà poi di fatto il tipo di progettazione che è stata partorita sembrerebbe perfettamente in linea con un'università divisa, quella delle, magari dell'elite versus quella un po' banale, di diciamo quasi... una formazione quasi meccanica, possiamo vedere oggi, non so, le materie per esempio informatiche, un po' di tempo fa promettevano chissà quale lavoro, adesso sì, questo è evidentissimo, sì, sono delle mode, ma perché te lo chiedo, perché ti riferisci a un'università di elite piuttosto contrapposta? Soprattutto mi riferisco in Italia, perché immagini che che riproduca un divario sociale. Ma sembrerebbe, anzi io parlo in questi termini, per esempio attraverso il campus abbastanza quotidianamente, e rispetto ai numeri che ho visto attraversare Palazzo Nuovo non c'è neanche la percezione, diciamo, dell'università di massa dentro al campus. È un dispositivo completamente alienante, anche la disposizione dei banchi nella biblioteca è rigorosamente, si guarda verso l'esterno, non c'è neanche l'incrocio di sguardi che i tavoli di Palazzo Nuovo permettevano di avere, quel contatto almeno visivo che poi fa sì che ci sia un reale scambio tra le persone che attraversano l'università. Ecco, sembrerebbe appunto prefigura un ambiente attraversato da sempre meno persone, in questo senso. Sì, in più l'aumento delle tasse universitarie, lo smantellamento del diritto allo studio, diciamo, la, e soprattutto anche, anche la, le politiche, diciamo, d'amministrazione. Si è fatto presente gli studenti che, appunto, i Campus Invaders, che tu ben conosci, sono partiti da una semplice domanda, ma teniamo aperta la biblioteca, cioè da una pretesa, fino alle 8, perché dalle 6 alle 8 questo posto è un buco nero, perché la biblioteca è chiusa, ci sono poche lezioni, e sembra altro non è che un palazzo di uffici che può essere attraversato dagli studenti, che dovrebbero essere la componente maggiore nella vita, maggioritaria nella vita universitaria. Bene, a questa richiesta si è risposto: ah sì, mettiamo i 150 ore. 150 ore, per chi non lo sapesse, è un bando che l'università emette e dà la possibilità di lavorare per l'università. Allora sopperire, diciamo, le tasse gli studenti le pagano, i libri li comprano, le, cioè, si, purtroppo tutte queste cose non ci si può esimere dal farle. Anzi, sui libri metto una postilla, perché ci sono in corso anche delle cose per contrastare il caro libri. Dopodiché scusa, perché mancano le risorse per garantire un servizio basilare come quello della biblioteca. Quindi, diciamo, ci sembra di poter identificare nel campus un riassetto dell'università, che appunto può essere letto anche come la posta in gioco del mantenere un'università comunque di massa, perché appunto gli spazi stessi, come faceva emergere un po' il confronto che abbiamo appena avuto, suggeriscono un attraversamento abbastanza blando del mondo, della struttura universitaria. Ti dico le mie impressioni. Mi trovi in assoluto accordo sul problema della selettività sociale dell'accesso all'istruzione superiore, nel senso andare all'università è ovviamente sempre più un privilegio di, purtroppo, in un tempo di crisi, di una classe più ristretta di persone. La stessa, non ho dati precisi, ti dico, sono le mie impressioni, la stessa fasciazione, cioè il sistema di tariffe differenziate, credo che sia mal calcolato, per cui quasi tutti finiscono nella fascia più alta e poche persone hanno accesso a un costo privilegiato, insomma, dell'accesso all'università. Ma tra l'altro tenete conto che il grosso costo di andare all'università non è la tassa universitaria, è il costo opportunità, cioè il fatto che uno studente tendenzialmente non lavora o ha difficoltà a lavorare, deve riuscire a mantenersi per anni durante il periodo della formazione, e fosse solo il problema della tassa, che è sempre più alta, ingiustamente. Guarda, tu centri perfettamente il punto, perché infatti la questione del trovare terreno facile per coprire le proprie mancanze da parte dell'università con il lavoro degli studenti trova un terreno proprio apparecchiato per questo, perché le famiglie, diciamo, non possono più permettersi di mantenere il pargolo che si forma, e bisogna accettare, lavorare, mantenersi, accettare qualunque genere di lavoro, condizioni di lavoro che rasentano lo sfruttamento rigorosamente in nero, e si ritardano così i tempi della formazione, e le tasse universitarie aumentano, e questo è un ciclo a cui è veramente ad oggi più che mai impossibile sottrarsi. Posso anche dire, io essendo in una posizione ibrida, cioè conosco un po' gli studenti, ma sostanzialmente lavoro all'università, ho presenti i miei colleghi, non bisogna immaginare che ci sia un'università cattiva fatta di professori che implicitamente, esplicitamente vogliono questo tipo di selettività sociale. Ce ne sono, ma c'è anche il contrario. Il grosso problema è una carenza incredibile di fondi. I dipartimenti non sanno più come tirare dentro i soldi, e sempre più c'è una mercificazione del sapere universitario. Questo non lo invento io, è notissimo. Io vedo che il prestigio di cui gode un ricercatore fra i colleghi è sempre meno dettato da quanto, dove si pubblica. Sistema distorto, ma tendenzialmente nel passato era così, ma quanti soldi si portano con dei progetti, che insomma, Dio santo, se volevo, non era l'obiettivo del mio lavoro, insomma, fare che numeri con i soldi, giustamente, non era proprio quello. Ma hanno lo stesso linguaggio dei crediti universitari, è fortissimo, come è entrata pesantemente una mentalità economicista all'interno dell'università. diciamo, quella sulla semantica, sul linguaggio che tu fai è una riflessione validissima. Non so se hai letto il nuovo piano previsto per il Politecnico, è assolutamente è uscito recentemente. Almeno fino a 2 anni fa, questa è una sorta di dichiarazione di intenti che il Politecnico fa con una cadenza se non annuale, biennale, non ricordo. Fatto sta che ci confrontavamo con i ragazzi che studiano lì e anche loro segnalavano e dicevano, almeno a livello di retorica, fino a 2 anni fa si diceva per la ricerca, la libertà, lo sviluppo della ricerca, l'avanzamento scientifico. Ecco, anche questa, diciamo, questa semantica qua è completamente sparita da documenti che riguardano l'università. Il rettore parla proprio di imprenditorializzazione. Lo so, sì, immagino, è ovunque questa cosa. Credo anche, non lo so, soprattutto in io insegno lì al campus, ho insegnato per anni economia, dove diceva proprio un orientamento politico, un linguaggio esplicitamente in quella direzione, adesso insegno relazioni internazionali. Trovo abbastanza anche discutibile la pretesa che la formazione universitaria debba essere necessariamente professionalizzante. Io questa cosa è politicamente scorretta da dire, però non può insegnarti un mestiere l'università, o non solo quello, certamente ti deve dare delle conoscenze utili al passo coi tempi, però le conoscenze che ti sono richieste cambiano molto rapidamente, non credo che debba soprattutto dare un sapere critico, non lo so, io insegno anche una materia che probabilmente è poco professionalizzante, quindi tento ad andare in quella direzione. Però la pretesa che l'università sia solo quello e che comunque si misurino anche lì l'utilità delle discipline, delle materie, su quanto possono aiutarti a essere imprenditore un domani o a creare ricchezza, è un altro aspetto di questa medaglia. E la responsabilizzazione è una parola che può essere anche cattiva, è la responsabilizzazione degli individui, degli studenti rispetto ai propri destini. Tu devi studiare qualcosa che ti darà lavoro. E in più, se tu non trovi lavoro è perché non hai abbastanza... Sì, è una colpevolizzazione dell'individuo che rimuove completamente il contesto in cui la persona si muove. Rimuove il contesto e responsabilizza anche quello che è il ruolo dello Stato sociale. Una volta la disoccupazione era un problema sociale, oggi sei tu che non sei abbastanza competitivo nel mercato del lavoro. È un reinquadrare i problemi. Assolutamente sì, guarda, il Job Act parla di disoccupazione involontaria, questa è una categoria che non si inventa Renzi, ma che non è mai stata così presente in un decreto legge. Sull'altro piano è il piano casa, sempre proposto dal governo Renzi, anche parla, divide i morosi, chi non può permettersi di pagare l'affitto, in morosi colpevoli, morosi volontari e morosi involontari. Allora, chi è che vorrebbe perdere la casa? Qual è il mondo in cui si può scegliere di non lavorare, quindi questa disoccupazione volontaria contrapposta alla disoccupazione involontaria, dov'è? Comunque è un terreno abbastanza diffuso di tutta quella la politica più recente, spostarla dal piano della politica in senso stretto, cioè contrapposizione fra idee differenti, ha queste valenze morali, per cui il moroso volontario non è soltanto moroso, è cattivo, a differenza di quello che è un po' meno cattivo, certo, perché è così le responsabilità non si possono andare a chiedere conto a nessun altro che non a se stessi. Chi amministra poi le risorse riguardo alle case, il lavoro, la formazione, non può essere interpellato più di tanto, perché la responsabilità è individuale. Se non hai un lavoro è perché non lo vuoi abbastanza, se non hai la borsa di studio è perché non sei abbastanza bravo o intelligente. Sì, tra l'altro, appunto questo principio meritocratico, va bene, se tu sei un genio e non hai soldi, ma se io non sono un genio e non ho i soldi, perché allora deve esserci? Potrò avere qualche possibilità anch'io, insomma. Il principio meritocratico si è coperto di una valenza tale per cui è considerato sinonimo di giusto. È molto discutibile se è Dio, possiamo immaginare molte forme di giustizia differenti. La meritocratica, è giusto che i posti migliori di lavoro ce li abbiano le persone migliori? O forse una parte deve essere data alle categorie più deboli? Non so. Parliamone. Infatti, sì, guarda, per chiudere, dato che siamo sconfinati nei massimi sistemi. Un chiacchierone. No, assolutamente non tu, anche io, e anzi, è stato veramente interessante confrontarsi con te, che sei uno studente, non sei però un professore così distante, perché talvolta il professore dentro l'università è anche la controparte, perché chi non è disposto a mettere in discussione la propria posizione, piuttosto che quell'altro che ti obbliga ad avere il libro originale, che costa 50 euro, magari scritto da lui, guarda io devo dire, insomma, questa cosa l'ho sentita dire tante volte, non voglio nomi, io non l'ho mai incontrata da studente, uno che abbia la faccia tosta di chiedere questa cosa. Perché, per esempio, no, ma ci credo, se me lo dici ci credo, ma mi sembra talmente patetica sta roba che... E purtroppo è così. Comunque il discorso ovviamente è già, diciamo, per tirare un po' le fila, sicuramente non ci sono metacriteri, quindi il posto migliore lo ha la persona migliore, ma migliore secondo chi? È la vera domanda. E quindi anche ribaltare questa etichetta, non permettendo più che ce la affibbino dall'alto, ma darla a chi in alto è, poi di fatto può essere anche un passaggio importante. E poi anche rispetto al discorso che facevi prima della vivibilità della condizione dell'essere studente, questo comunque è un qualcosa che è anche della vivibilità dei luoghi stessi, appunto. Questo è qualcosa. Scusa, non voglio rubarti ancora tempo, volevo essere riguardo al luogo fisico, al campus. Io personalmente è evidente che ci sono delle criticità, come tutte le grandi strutture, questi corridoi sembrano quelli di un ospedale, mi hanno detto che c'è stata anche una fiction adesso dove si simula che sia un ospedale, quella lì Tizzetto, non so cosa sia, non l'ho vista, ma il punto è, in realtà però vedo tante forme di riappropriazione dello spazio, la vostra è esplicita, è politica e rende molto visibile il fenomeno, ma ce ne sono anche altre di più piccola scala, per cui... La gente si riappropria di uno spazio anche che sembra alienante, lo trasforma in spazio vivo, non so, mancano le tende perché pare, credo, sia fallita l'impresa che doveva metterle e la gente inventa fogli, poster, se guardate la facciata è impressionante esteticamente, come sia molto varia e rifletta un'umanità che dal basso inventa delle proprie soluzioni ai problemi, e quindi è appena fatto questo campus, certo che... è molto alieno ed è molto alieno rispetto anche al contesto che ha attorno, territoriale, però ci va tempo, voglio dire, una cosa come 10 anni nel tempo della vita di una persona è un'infinità, nel tempo dell'urbanizzazione è poco, è giusto, quindi magari qualcosa di buono salterà fuori dallo spazio del campus, me lo auguro. Guarda Palazzo Nuovo, faremo, è uno spazio... faremo saltare qualcosa, sicuramente qualcosa di positivo fuori dal campus. Palazzo Nuovo è bruttissimo da un punto di vista architettonico, però è uno spazio bellissimo, sono successe tante cose, la gente lo ricrea poi il luogo. Il problema probabilmente è proprio che il campus è un dispositivo che mira ad essere un non luogo, a non far interagire gli studenti e le persone in generale tra di loro. Noi sicuramente, gli studenti del campus sicuramente stanno provando e proveranno comunque a rompere questo clima comunque piatto, sterile, e far sì che nasca qualcosa come a Palazzo Nuovo e come in altre università, perché veramente... Beh, un po' tutti i luoghi dello studio per definizione sono cool di creatività, di pratiche. Beh, domani sicuramente avremo la possibilità di confrontarci sulle forme di ridefinizione del luogo, anzi di quasi territorializzazione, non saprei quasi come definirla, perché appunto che abbiamo notato già che spontaneamente nascono, e anche di metterne in campo di nuove e di pensarne di nuove a partire dai nostri bisogni, sperando che sia ancora più arricchente delle altre volte, perché comunque c'è la volontà proprio di mettersi a tavolino e di buttare giù delle idee, metterle in fila e tirarle fuori dalla chiacchiera da bar, che fa sempre piacere, ma va messa nel binario dell'organizzazione, così che quel luogo si ridefinisca o si definisca come tale. Va bene, perfetto, Alberto. Bravi. Grazie mille. Grazie a voi. Allora, domani noi rilanciamo l'appuntamento degli invasori, il picnic di Campus Invaders al campus a Luna. A seguire dibattito con il professor Dansero e Alberto Vanolo. E ragazzi, mi dispiace, mi sfugge il terzo nome. Va bene. Alberto, grazie. Si scoprirà domani, è sorpresa. Esatto, sorpresa. Questi invasori sono pieni di sorprese. Alberto, grazie mille della chiacchierata, è stata davvero interessante. Ciao, a domani. Ciao. Io non recco strofe con metodo, taglia e cuci, proseguo la mia via cruci, sotterro sti froci illusi che campano di sotterfugi, parzero spegni le luci, abituato a scuri pertugi. Milano-Roma, sfatiamo miti d'antagonismo, tipi per fantignolo, odi, rompo l'omismo, quale atto coglione, non ti ricordi che è successo a Gizmo? Mando a casa rapper di merda a far modellismo, questi si cagano la faccia, poi ci danno dei frustrati, peccato che da ogni traccia ne sono mutilati. Champion Sound, MVP, Steve Nash, cazzo vuoi scemo, girati pedale, gag la pelle. Che schi spasaglia, detti spettacchi che muovono bocca larga, ogni parola qui è una spranga, qui i razzi stanno alla larga, non basta parlare di ganja, se barre so calci in pancia, quest'anno è vera minaccia. Y'all know the name, Steve Green, sono qui per far smettere il tuo campione mondiale. Y'all know the name, Luci, con un messaggio per il mondo, col cazzo che parla capone. Y'all know the name, Steve Green, sono qui per far smettere il tuo campione mondiale. Y'all know the name, Luci, con un messaggio per il mondo, col cazzo che parla capone. Questo è Luci, Broken Speaker Crew, insieme a mio fratello E Green, Unlimited Struggle, Brutti Chefi Mixtape 2012. È il suono della vecchia scuola insieme a quella nuova, c'è negli incubi lontani da sotto queste lenzuola, pioggia sempre poi acqua alla gola, però meglio del niente, me tiene mille miglia dalla tua stagnola, giovane per sempre, sì, ed è una cosa che la gente difficilmente potrà mai capire, mentre peggio scausi sognano MVP, la gente come noi devasta e parte, non si muove da qui, no, rimango fermo e coerente, qua non è mica per niente, se quando stiamo su un palco ci viene un sacco di gente, tu puoi far prepotente, meglio che accanni per sempre. Sempre perché a campare così sei solamente un perdente. Sono un cazzo di dinosauro immerso a questa scena pro granitico, 40 tonnellate sulla schiena giunta al paleolitico, calo come un fiume in piena, sei ridicolo, comando a casa riscrivere il tema. Y'all know the name, Steve Green, sono qui per far smettere il tuo campione mondiale. Y'all know the name, Luci, con un messaggio per il mondo, col cazzo che parla capone. Y'all know the name, Steve Green, sono qui per far smettere il tuo campione mondiale. Luci, con un messaggio per il mondo, col cazzo che parla capone. Sono qui per far smettere il tuo campione mondiale. Y'all know the name, Luci, con un messaggio per il mondo. E questa è dedicata a Daniela, amante di Marsiglia. Bienvenue à Marseille, quartier nord, quartier sud, centre-ville, David, sous le soleil, nos cœurs sont gris. Bienvenue à Marseille, pour notre art, pour notre âme, pour nos larmes, pour nos drames, mais le peu, il faut que ça crame. Bienvenue à Marseille, c'est ta vie qui paye tes dettes, a pris et mis ta tête, tout ce jeu serait coquette. Bienvenue à Marseille, coup de tête, des ciseaux, coup de tête, de police, et on remporte la Champions League. Bienvenue à Marseille. Tout le monde est calibré, la nouvelle mode est arrivée. Tous les mecs se la jouent pour cause, dans la rue, trop de mistops font saliver. Cellulaire de qualité, la grosse camance en plein été. Marseille, c'est le soleil, la mer et le crime organisé. On a les plus belles gaz, ça tcha tcha après le hasi m'a dit, ça tu caches même pour vilain, toutes tes chiens de trop grand magique, tu craches tout en monnaie, tout pour elle, on te connaît, dans le quartier tu restes abonné, tu rentres en tôle, elle t'a donné le bol, elle est partie avec Eva Boy, elle a ras-le-bol, elle a fait la molle comme un pigeon, t'as laissé des millions, ta maison, t'es un donjon, cache ta vie pour des nichons, vision, illusion, télévision, vie de gangster, tout ça c'est bidon, détention, traction, coup de pression, le ventre de gueule, tu connais la chanson, enfant de la canicule, la tête cramée, bienvenue dans la ville où le ciel est bleu 11 mois dans l'année, excite des rêves condamnés, ils nous ont canés, ils ont vendu Marseille, ils ont quitté au fond d'une cage d'escalier, bienvenue dans ces ruines, cicatrices de ma ville, bien des filles, curé vite fait expulsion, centre-ville, où ça crève, où ça traîne, où la police aime rafler même, ferme sociale et nous nargue avec leur tramway de merde, voilà la dernière ville du bled sur leur terre, qui tente d'assassiner à terme, plus grand commissariat de France, frère, comme partout il y a ceux qui savent, ceux qui soumettent, sinon rien neuf, hormis la feuf niveau fumeur. Welcome to Marseille, if you say you can say, menace to society, is that kind of city, situation shitty, the girls them too pretty, bad boys them too dirty, police so ugly, listen the MC, respect the artist, this under the artist, like what pop artist, where you feel so much stress, sometimes so much distress, sometimes you say oh no, but you always say oh yes. Diggy Diggy est ton inspiration, la zik est criminelle, on baisse le circle, check la devise du QN, original au microphone, indomptable comme le lion, un 4-3 légendaire sans concession, c'est le rap de la zone, baisse sur la version, black peer, illégal, nous parle pas de paix sociale, quand les chances sont inégales, instinct animal en démonstration, sa transition en live du béton, on est venu honorer la PN session, lyrics 1143, ratata Philippe Fiat, notre pétrant tous ces politocars avec leur cravate. Quartier Nord, Robert de Vatos, venez faire loco, Sangamos, accélération signée 13 pour. J'avais la dame mort à l'âge des dents de lait, signoré, c'est le RR au café au lait, tu connais, plein d'encastellane, calamité, c'est mauvais de nous avoir isolés, maintenant on renaît, on promet des choses à regretter, des roses à déposer, des doses à diminuer, c'est trop d'excès, c'est trop blessé, alors qu'on a une guerre à mener. Ci segnalano che lo streaming è un po' sfasato, vi diamo un consiglio, allora invece di accedere allo streaming dalla pagina streaming, premete play dalla pagina principale del sito della radio e intercetta da solo il player giusto. It's that kind of city, situation shitty, the girls them too pretty, bad boys them too dirty, police so ugly, listen the MCs, respect the artists, this under the artists, like what pop artists, where you feel so much stress, sometimes so much distress, sometimes you say oh no, but you always say Saint-Tropez, quartier nord, porte et couille, écarte les portes, reste jean, épargne les morts, c'est par les forts, j'ai par les forts, pousse vite, temps de calme, avec la misère, plus de compas, sur le parcours comme compagne, mec, tu m'emboucanes, un 3 c'est le sport, la musique comme trop, mec plein des comme pauvre, activité cloque moche, d'octobre à octobre, pourquoi la prière du dimanche, y'a pas la fièvre du samedi soir, pas pour donner son cul, grosse salope, ravis-toi, nombreux sont dans le cas, à taper les inconvénients pour les avantages, ici ce qu'on respecte, c'est tout ce qui parle en cash. Un pied dans la rue et l'autre dans l'industrie. Tout ce qu'on touche fait boucherie. Diplômé du shootstar et de la pucerie. Bienvenue dans la région. Ore 12:29 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ci avviciniamo alla fine di Parole Ribelli. E adesso andremo in diretta con un compagno di EHL. Ci senti? Perfetto, un saluto a tutti. Ciao anche a te. E ricordiamo oggi allora l'incontro organizzato da EHL che si terrà alla biblioteca autogestita del terzo piano a Palazzo Nuovo alle ore 17 sulle pratiche di solidarietà e resistenza, e cioè praticamente il muro popolare, questa pratica che si è sviluppata in Euskal Herria. Ci vuoi parlare un po' dell'incontro e di questa pratica di resistenza che si è sviluppata nei Paesi Baschi? Sì, allora io comincio inquadrando rapidamente il contesto in cui avviene questa iniziativa, perché come hai detto tu un'iniziativa organizzata dal Comitato Amici e Amiche di Scaleria di Torino nell'ambito dell'ottava settimana internazionale di solidarietà col popolo basco. E tradizionalmente appunto la settimana ha un, diciamo, un doppio obiettivo: da un lato quello di portare solidarietà a questa lotta, riportando la pesante repressione soprattutto che i compagni e le compagne subiscono da parte dello Stato spagnolo, e dall'altro darci anche un'occasione di incontri, di dibattito, di confronto tra le loro lotte e le nostre lotte. Quest'anno appunto abbiamo pensato di centrare l'argomento sulla pratica dei muri popolari, perché appunto è, diciamo, un elemento di novità nel panorama della resistenza sociale e politica nei Paesi Baschi. Come hai detto tu, diciamo, è una pratica che si è sviluppata nel corso dall'inizio dell'anno scorso, quindi del 2013. In particolare avremo oggi ospite Davide, un regista del documentario Resistant Darwa, dal nome della cittadina di cui andremo a parlare, e due compagni che hanno partecipato a questa esperienza. Tanto per inquadrare un po' la situazione, diciamo che il muro popolare è una pratica di resistenza che consiste nel fatto che molti compagni, ma anche solidali, persone, diciamo, comuni di Scaleria, si ritrovano per stringersi attorno ai compagni che la polizia spagnola vuole arrestare. Nel caso specifico, ad esempio, a Don Darwa, nel maggio 2013, la polizia aveva, diciamo, l'ordine di arrestare una compagna, Ursa, condannata a 5 anni per una presunta collaborazione con ETA, secondo una confessione storta, come quasi sempre capita, sotto tortura. In questa piccola cittadina, che consideriamo una cittadina di poche migliaia di abitanti, si sono stretti tutti attorno a Ursa per impedire il suo arresto, e per 6 giorni sono riusciti ad impedire alla polizia di compiere l'arresto. Chiaramente con i compagni andremo un po' a capire quali siano gli obiettivi di questa pratica, che, insomma, per dare due coordinate, crediamo che da un lato ci sia sicuramente l'interessante esperienza di riattivazione della partecipazione popolare, perché appunto a questi muri popolari partecipano un po' tutte le persone del paese, quindi in un certo senso, non so, potremmo pensare anche, per parlare di una situazione che conosciamo un po' meglio, ad esempio all'utilizzo dei presidi notav, no? Che hanno comunque riattivato una partecipazione popolare, delle connessioni tra le persone che abitano i paesi della valle. E dall'altro, sicuramente un obiettivo importante è quello di continuare a, diciamo, presentare mediaticamente la repressione, perché, come molti penso sapranno, dal 2011 l'ETA, l'organizzazione armata, ha deciso di deporre le armi, diciamo, passando ad un processo di risoluzione del conflitto che passi per una soluzione politica, e nonostante questo la repressione dello Stato spagnolo non è per niente calata, per cui questi lo dimostrano appunto il fatto che questa compagna sia stata condannata a 5 anni appunto per una non ben definita collaborazione con ETA, per cui per questo crediamo anche che l'esperienza di Muri abbia anche questo obiettivo, quindi quello di portare alla luce il problema, far dimostrare che comunque, nonostante l'ETA abbia attuato questa svolta, dall'altra parte lo Stato spagnolo non l'abbia per niente recepita, perché appunto la repressione continua ad essere molto, molto feroce. Sappiamo che appunto i compagni continuano ad essere arrestati, spesso torturati, e diciamo le confessioni non sono mai molto spontanee, ma avvengono appunto in situazioni particolari. E, insomma, poi andremo appunto sia con il regista del documentario che con i due compagni a sviscerare un po' anche questi temi, sicuramente loro lo faranno meglio di me, e a seguire ci sarà anche un aperitivo, quindi vi invitiamo a partecipare tutti. Ti ringraziamo, Alberto, per la spiegazione, diciamo, e invitiamo tutti a partecipare oggi alle 17 all'incontro che si terrà al terzo piano. Sul muro popolare. Grazie, Alberto. Grazie, un saluto a tutti. Ciao. Ciao. Il lungo braccio della legge non salva la verità, viaggia mezz'aria in una palla, dateci il braccio di Sandras. L'odio c'è che ci spappola negli occhi di chi guarda, non risiede la bellezza, ma una fiamma che non scalda, brucia una folla che ora parla, a cui non puoi dare la caccia o tenerla alla larga. Se gli cucci la bocca, colpi di ferro è meglio che tu sappia. Un fil di rabbia, basta dare un fil di voce alla massa rimasta. Il volume si alza, l'intensità incalza, la lucidità si trasmette nell'aria rarefatta. Il mormorio della presa ritarda, perché un coro possa cambiarla nel frastuono del vento in una risacca. Basta con noncuranza, conosce la sua forza e nessuno riesce a fermarla. Adesso veste una nuova corazza, si staglia il cielo anche la volta celeste, costretta a voltarsi per contemplarla. Vedi che è morti e non ha perso la speranza, dal fiume dei ricordi una goccia è venuta a galla. Lo scoglio di freddezza fa dell'acqua spuma bianca, scorcio sulle labbra e la saliva è schiuma bianca. Non cerca luci di ribalta, vuole luci di pensiero ad animarla. Le parole o fanno altrove o fanno a vanvera. Come si fa a biasimarla, se poi si perdona ancora abbandona la sua anfora. Ne senti il tempo qua, visto che la merda non spiaga le chiavi anche ricoperta da olio di canfora. Il genio ha perso la lampada, il diavolo ha un'anima candida e veste le vesti di sua santità. Chi non paga ci intrappola, il teorema funziona solo sul retto come quello di Pitagora. E più che tanto fra, ci serve l'attitudine alimentare di Hannibal. Anzi ma, ci mangiamo tra noi come locuste, la verità è scomparsa da spazio alle industrie. Le gambe corte delle menzogne sono più giuste, visto che ormai la notte si dorme sul letto di Procuste. Cos'è che spinge l'uomo ai suoi eccessi? Chi è che voglia per i debiti commessi? Ma se, votiamo contro noi stessi. Com'è, che continuiamo a rieleggerci? Il giocattolo è ridotto in cocci per troppe colpe, non paga chi rompe, tantomeno chi corrompe. Una corte che si farà giustizia con una pena di morte, spegne le rivolte della gente nella polvere, che rivorrebbe l'ordine tramite un golpe. Insorge con la furia di chi crede al punto tale a un ideale per il quale può soccombere. Bagna con le lacrime la lapide delle loro tombe. Mi sembra normale la contraddizione di chi parla di integrare. 12.37 sui 105.250. Andiamo in chiusura di puntata e diamo l'ultimo aggiornamento. Sentiamo il racconto di ieri a Palermo, una mattinata di ordinaria follia. Nel liceo linguistico Cassarà, verso le 11, una squadraccia della Digos si è presentata presso i locali dell'istituto per interrogare e poi elargire misure cautelari agli studenti che avevano vissuto da protagonisti le mobilitazioni che avevano coinvolto la scuola. Ricordiamo che questa scuola non è nuova a questi episodi. I ragazzi che avevano partecipato all'occupazione l'anno scorso erano stati sospesi dalla preside Daniela Crimi. Piuttosto grave quello che è successo, perché se la scuola diventa veicolo acritico di qualunque ordine dell'autorità giudiziaria, come si può allora instaurare un rapporto di fiducia tra studenti e formatori? Quindi ci rammarichiamo del fatto che comunque i professori abbiano prestato il fianco alle operazioni della Digos, perché sappiamo perfettamente che le mobilitazioni che hanno coinvolto questi studenti parlavano della condizione degli studenti prettamente, ma dello stato in cui versa la scuola tutta. Quindi invece di dare man forte ai propri studenti che pensano con la propria testa e mettono a critica quello che hanno intorno, gli si offre, si spalancano le porte della polizia della Digos perché possano essere più efficaci nel fermarli. Bene. Sappiamo perfettamente che i ragazzi non si sono persi d'animo, che ascoltiamo infatti ora il racconto di Max, uno studente del collettivo del Cassarà. Sono Max, uno studente del Cassarà. Ieri, in data 4 aprile, la polizia è venuta nella nostra scuola per effettuare degli interrogatori e per comunque mettere in atto dei provvedimenti verso gli studenti che avevano fatto le mobilitazioni e che avevano partecipato all'occupazione della scuola. Verso metà mattinata si reca la polizia a scuola vengono chiamati quasi tutti i professori a testimoniare e comunque ad essere interrogati da due funzionari della Digos riguardo i fatti dell'occupazione. Dopodiché, dopo circa una mezz'ora, veniamo chiamati coloro che avevano firmato la responsabilità della scuola durante l'occupazione, con la scusa appunto di avere consegnato i pagellini o comunque di presentarsi con i pagellini, quelli di metà quadrimestre, che comunque vabbè, diciamo è stato abbastanza palese che comunque non eravamo lì per quel motivo, ma appunto eravamo presenti soltanto i 20 firmatari, per cui con la Digos negli stessi uffici dello stesso piano comunque la cosa ha cominciato a puzzare sin da subito. Dopodiché veniamo rimandati nelle classi perché probabilmente dovevano fare una sorta di identificazione fisica degli studenti che erano stati chiamati. Dopodiché sono tornati a chiamarci soltanto a quattro studenti che a uno poi siamo stati invitati ad entrare in un'aula del quinto piano dove ci sono anche la segreteria e la presidenza, dove appunto ci stavano aspettando dei funzionari della Digos per identificarci. Niente, ci hanno identificato, dopodiché ci hanno detto che comunque c'era una denuncia in corso per gli occupanti con i reati di violazione privata e interruzione a pubblico servizio, che comunque sarebbero probabilmente stati presi dei provvedimenti forse disciplinari a livello proprio scolastico per quanto riguarda appunto i fatti accaduti. Questo comunque è l'esploit, un'ulteriore dimostrazione dell'attitudine della dirigente scolastica, che comunque ha dimostrato più volte di non avere la capacità e le competenze di saper gestire appunto il tessuto studentesco, nonché tra l'altro mediarlo, ma ha sempre avuto bisogno di ricorrere appunto a quella che potesse essere l'ausilio delle forze dell'ordine, appunto perché invece di voler mediare o comunque trovare dei punti in comune o avere proprio delle relazioni con gli studenti, ha sempre cercato di giungere a dei rapporti di forza con appunto col corpo studentesco. Con questo comunque, perché dico che è stato l'esploit, perché a parte questo, dopo l'occupazione, a parte le costanti chiamate comunque alla forza di polizia, è stata anche fatta una sospensione verso non solo i 20 maggiorenni firmatari, ma anche verso anche alcuni altri minorenni che erano assidui partecipi della mobilitazione. A parte questo, comunque, ovviamente il corpo studentesco non si fa intimidire, appunto, come non ha lasciato che fosse così durante il periodo dell'autunno, non si fa intimidire da quelle che sono le forze dell'ordine, né il ruolo del preside sceriffo. Ovviamente continueremo a fare qualche mobilitazione anche in risposta a questi movimenti che sono stati fatti verso di noi. E finita l'intervista allo studente palermitano, continuando sullo stesso tema, aggiungiamo che qualche giorno fa a Terni, in ben quattro istituti, si è presentata la polizia con cani antidroga per compiere un controllo. In un'aula però il professor Franco Coppoli ha manifestato la propria contrarietà a questi controlli, e di conseguenza non ha permesso alla polizia di effettuare poi realmente, materialmente il controllo, e in tutta risposta per questo, per aver difeso praticamente i propri studenti, potrebbe scattare a suo carico una sanzione disciplinare. Ci sembra questo abbastanza molto assurdo, in quanto, come abbiamo appena detto, come abbiamo precedentemente detto e come ha detto lo studente di Palermo, è inconcepibile la presenza della polizia all'interno delle scuole. Ore 12:45, Parole Ribelli si avvia alla fine, un po' di musica, gli incontri della settimana e chiudiamo. quanti anni sono che parlo da solo. E non hai pietà tu di me. Yo, Bax Kubrick, ti parlo della mia vita. Parole come punti di sutura su questa lingua ferita. Il teleschermo, apro la finestra e vedo già l'inferno. O forse è proprio questo che mi spaventa. L'immagine raccapricciante non si sedimenta. Nella mia mente piombo rovente, un oggetto contundente contro un dente. Mentre i prezzi rincarano, sotto casa mia si sparano. Io sento i colpi ma non... Parole ribelli va in chiusura sotto le grida del GR che ci vuole fuori di qui immediatamente perché deve essere puntuale. Noi siamo d'accordo, quindi leviamo le tende, diamo solo una comunicazione, ovvero la cena di stasera all'asilo non è dell'asilo, non è all'asilo, ma in via Cimarosa 14 nella nuova occupazione. Quindi ricordiamo ancora gli appuntamenti di oggi alle 17, l'incontro con gli amici e amiche di Euskal Herria e la presentazione del documentario, domani nei prati del campus il secondo appuntamento con l'invasione e mercoledì sera alle 21 nel cortile della Cavallerizza si riunisce ancora una volta l'assemblea Cavallerizza 14:45. Un saluto da Parole Ribelli, da Silvestro e da Eddie, vi lasciamo al GR e a Cattivi Pensieri.